stanza. C'è qualcosa che non va col palco qua. Se mi dai un altro leggio, magari uno di quelli neri, posso appoggiare la mia Bibbia e siamo pronti? Rosalia, noi sono venuto per questo. Siamo pronti per ascoltare la parola. Per chi è nuovo in mezzo a noi, io voglio darti il mio più caloroso benvenuto e voglio ribadire quello che noi già sappiamo, ma è importante che ci ricordiamo. Noi siamo qui riuniti perché dipendiamo dalla parola di Dio. Dipendiamo da ogni istruzione, ogni indicazione che troviamo dalla Genesi all'Apocalisse. Non siamo un gruppo e una comunità di persone guidate da una filosofia o da un'idea di uomini. Noi vogliamo essere una chiesa che è fondata e radicata sulla parola di Dio. Vogliamo dipendere da ogni singolo verso che troviamo nella parola di Dio. Vogliamo modellare la nostra vita secondo quanto la Bibbia insegna, perché lì c'è vita. Pietro a un certo punto, l'apostolo Pietro, quando era con Gesù, Gesù dopo aver fatto un discorso complesso, dice a tutti, ma perché non ve ne andate anche voi? E Pietro risponde a Gesù, dove andremo noi? Solo tu hai parole di vita e noi abbiamo creduto. Noi siamo qui perché crediamo che la parola di Dio è parola di vita per ciascuno di noi. Amen? Nel momento in cui noi ascoltiamo la parola di Dio e la mettiamo in pratica nella nostra vita, noi viviamo l'abbondanza di vita. Infatti Gesù, e lo possiamo leggere nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10, dice: voi avete un nemico, il cui nome è il diavolo, lui viene per rubare, ammazzare e distruggere. Non pensate che questa sia una perfetta descrizione di una guerra? Viene per rubare, viene per ammazzare, viene per distruggere. Il diavolo ha dichiarato guerra alle nostre vite. Il diavolo ha dichiarato guerra alla tua anima. Il diavolo ha dichiarato guerra alla tua famiglia. Il diavolo ha dichiarato guerra al tuo futuro. Il diavolo vuole sabotare ogni cosa che ha a che fare con la tua vita, ma Gesù aggiunge: io sono venuto affinché voi abbiate vita e vita in abbondanza. Noi siamo qui per questa promessa, noi siamo qui perché viviamo questa promessa. Siamo delle persone che sono in battaglia, riconoscono che hanno un nemico schierato contro, violento, che vuole distruggere completamente, ma abbiamo la consapevolezza che Gesù è venuto per tenderci la mano, salvarci e darci vita in abbondanza. Non so come sei venuto, con quale cuore sei questa mattina qui in questo incontro, non so qual è stata la tua settimana, non so quali circostanze stai attraversando, ma una cosa so, che quello che Dio promette, Lui poi lo mantiene. E se Gesù ha detto che è venuto per darti vita in abbondanza, è un tuo privilegio, è un tuo diritto, è una tua conquista quella di poter ottenere vita in abbondanza. Dio vuole farti uscire da questo luogo diverso da come sei entrato. Forse sei entrato con ferite, con dolori, con circostanze che stanno determinando i tuoi sentimenti e le tue emozioni. Gesù ti dice questa mattina: io voglio curarti. Io voglio prendermi cura di te e fare in modo che tu possa essere vigoroso, pieno di vita, vita abbondante. Io voglio che tu sia vittorioso e che tu viva una vita vittoriosa. Amen? Questo non era nei miei appunti, ma ho voluto dirtelo perché sento che lo Spirito Santo è qui in mezzo a noi per incoraggiarci. Quindi prendiamoci per mano, se sei vicino a una persona puoi pure abbracciarlo, soprattutto se è tua moglie e tuo marito. Se sei single e sei vicino e ci vuoi provare, non ci provare. Vogliamo pregare insieme. Grazie Gesù perché sei buono e la tua bontà dura in eterno. Questo è quello che dice la tua parola e noi crediamo nella tua parola. Grazie perché tu ami il mio fratello e la mia sorella, chi mi sta a fianco. Grazie perché tu hai piani meravigliosi per loro e tu vuoi salvare le loro vite, dargli quella pienezza di vita, quell'abbondanza di vita. Io prego, noi preghiamo affinché in questo luogo, nel nome di Cristo Gesù, la potenza del nemico possa crollare, le catene si possano spezzare e ogni tentativo del maligno di derubarci, di ammazzarci, di distruggere possa fallire nel nome di Cristo Gesù. Grazie Padre perché tu sei più forte, a te la gloria e l'onore. Amen. Amen. Lo stanno costruendo, Legio. Grazie Samuele, hai trovato una soluzione. Non lo so, vi ricordo. Grazie. Vabbè, dai, va benissimo così. Questi sono quei bellissimi momenti dove ti rendi conto che anche tu puoi ritenerti alto. Perché se questo Leggio è stato progettato per questa altezza, allora io sono alto, supero la media. Filippesi, andiamo a leggere stamattina da una bellissima lettera. La lettera ai Filippesi è una lettera meravigliosa, tutta la Bibbia è bella, ma questa lettera è qualcosa di incredibilmente bello. È una lettera che l'Apostolo Paolo scrive per ringraziare, quindi parte da un cuore di ringraziamento, di gratitudine. E sapete, la scorsa settimana, in America almeno, ogni ultimo giovedì del mese di novembre, c'è una festa che è la festa del ringraziamento, si ammazza tanti tacchini e si fa festa insieme e noi ogni anno partecipiamo a questa festa perché mia cognata è americana e quest'anno perché erano talmente tante le persone che voleva invitare abbiamo vissuto due feste di ringraziamento per due settimane di seguito, non facevamo altro che guardarci e ringraziarci. Grazie per vivere, grazie per il tacchino, grazie di tutto, era una gratitudine completa, continua in mezzo a noi ed è stato proprio bello. Devo dire che abbiamo tanto vissuto la gioia di vivere gratitudine l'uno nei confronti dell'altro che la prima festa che abbiamo celebrato, visto che erano due, è finita in lacrime. C'era Leo che non si conteneva più, piangeva in continuazione per ogni intervento, perché quando noi tiriamo fuori il ringraziamento che è nel nostro cuore, c'è qualcosa spiritualmente che accade. C'è qualcosa che ci libera, c'è qualcosa che porta gioia. Infatti erano lacrime non di tristezza, ma di gioia. E la gioia può arrivare a quel punto tale da farti piangere. E stamattina vogliamo parlare di gioia perché questa è una lettera di gioia. Ed è una lettera che conosciamo bene perché l'anno scorso ci è capitato di citare questo verso che si trova nel capitolo 3 al versetto 16, più di una volta, in più di un'occasione, in modo particolare in occasione dell'avvicendamento. E questo verso dice, Paolo scrive, soltanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Ora dobbiamo renderci conto che l'Apostolo Paolo scrive questa lettera in età avanzata, quando è già da 25 anni credente. Dovete immaginare un po', tutti i viaggi, tutti e tre i viaggi missionari che noi leggiamo negli Atti degli Apostoli, lui li ha fatti tutti. Ha fondato decine e decine di chiese, ha visto decine e decine di migliaia di persone venire a conversione attraverso il lieto messaggio dell'Evangelo, ha visto miracoli, ha visto città letteralmente trasformate, eppure io rimango stravolto quando leggo queste parole nel contesto che l'Apostolo Paolo sta vivendo, nel fatto che lui è già arrivato a un punto della sua vita dove tante tappe sono state raggiunte. E voglio leggere con voi i versi che precedono questo verso qui e quelli che vengono dopo, perché voglio che voi cogliate con me l'eccezionalità di queste parole di Paolo, perché nell'eccezionalità di queste parole è rivelato un segreto importantissimo per ciascuno di noi questa mattina. Dal verso 10 noi leggiamo che Paolo poco prima dice: io sono stato disposto ad abbandonare, a lasciare ogni cosa, ho ritenuto ogni cosa spazzatura pur di conquistare Cristo, e poi aggiunge tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Guardate ora cosa aggiunge. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, versetto 12, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare ancora di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. E poi aggiunge, fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Sapete cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo in altri termini? Che il mio presente non è tanto motivato dal mio passato quanto dal mio futuro. Che io sono qui per vivere una vita nella quale voglio protendermi sempre e continuamente verso quegli obiettivi nuovi, quelle conquiste nuove, quelle tappe nuove che Dio ha per me davanti a me. E poi aggiunge, sia questo il sentimento di ciascuno di noi che è maturo. Dio vuole che ciascuno di noi non viva delle conquiste ottenute in passato, che non sia legato nostalgicamente a ciò che abbiamo vissuto dietro di noi, ma che viva una vita che guarda avanti e che mira alle conquiste ancora da raggiungere. Ci sono delle conquiste per ciascuno di noi, fratelli e sorelle. Ci sono ancora delle conquiste per ciascuno di noi. Non ha importanza se sei credente da un anno, da una settimana, o sei credente da 25 anni, o sei credente da 40 anni. Non ha importanza quanto hai ottenuto, quanto hai conquistato, c'è ancora dell'altro. C'è di più per la tua vita. Ci sono nuove conquiste, ci sono nuove tappe da raggiungere. E io capisco che voi mi state ad ascoltare, dite sì, annuite. È facile dire sì, è facile essere d'accordo in tutto questo. Ma il mio cuore, la mia preghiera stamattina è che tu possa afferrare realmente questa è verità. Quella che ti sto trasmettendo è una verità che io prego con tutto il cuore che possa far nascere almeno una scintilla di fede in te, a credere che ancora il cambiamento nella tua vita è possibile. Una scintilla di fede che ancora può muovere dentro di te qualcosa, a credere che davanti a te c'è il meglio e non dietro di te. Io spero che queste parole possano motivarti a guardare oltre ogni limite che c'è nella tua vita, perché non c'è limite che tenga Dio, e Dio vuole farti più che vincitore, più che conquistatore in Lui. Ho letto la storia di due insegnanti negli Stati Uniti, uno insegnante da 20 anni e l'altro insegnante da 6 anni. Entrambi fanno richiesta al preside per quella che era la possibilità di un incarico nuovo, essere vicepresidi. E alla fine di questo bando, di queste richieste raccolte, il consiglio studentesco decide di dare l'incarico di vicepreside a quell'insegnante che ha insegnato per 6 anni e non all'insegnante che ha insegnato per 20 anni. Al che l'insegnante che ha insegnato per 20 anni va dal preside, va dal consiglio e comincia a lamentarsi, a dire ma come, io ho l'esperienza di 20 anni di insegnamento, io avrei dovuto prendere quella carica. E il preside, guardando questo insegnante, le rispose, sì, tu hai, è vero, hai insegnato per 20 anni e quell'altra persona per 6. Il fatto è che questo insegnante ha esperienza di 6 anni l'insegnamento. Tu invece hai l'esperienza di un anno di insegnamento ripetuto per 20 volte. E sapete, a volte la nostra vita, non so se avete colto, a volte la nostra vita si riduce in questo, e a volte anche il cristianesimo diventa questo. Diventa una routine basata sull'episodio e l'esperienza avuta quella volta, che ricordiamo vagamente dietro negli anni. E noi poi ripercorriamo quel solito cerchio di rituali, quel solito cerchio di abitudini ripetute, quel solito cerchio dove rifacciamo le stesse cose. Perché? Perché crediamo che quello è tutto ciò che noi abbiamo da poter ottenere, quando invece la parola di Dio dice che essere cristiani significa letteralmente essere uno in Cristo, avere Cristo Gesù che dimora dentro di noi e ci dà autorità e potenza per vivere una vita che segue il suo esempio e che conquista nuovi territori. Io spero che questa mattina, se c'è qualcosa che arriva al tuo cuore, possa essere questo, che la tua possibilità di cambiamento è ancora tutta lì, davanti a te. Tu puoi uscire dal vizio nel quale ti senti imprigionato. Tu puoi uscire da quella condizione di schiavitù e di claustrofobia per il carattere che vivi. Se c'è una bugia delle più brutte che viviamo, anche come credenti, è la bugia che ci ripetiamo e ci diciamo l'uno all'altro: io sono nato così, io sono fatto così, io sono sempre stato così. E questa bugia non fa altro che imprigionarci in una stessa condizione che si ripercuote nel tempo. Comincia a confessare la verità della speranza che hai in Cristo Gesù di poter cambiare sempre, di poter essere una nuova persona, di poter avere un nuovo carattere, di poter rompere le catene e volare libero verso cieli che sono sempre più alti, perché Dio ti chiama a grandi cose. È tempo di credere queste cose. Io non voglio credere che nei prossimi 10 anni sarò tutto quello che sono oggi. Io voglio credere che fra un anno io sia diverso di come sono oggi, e che fra 2 anni sarò ancora diverso di come sarò fra un anno, e fra 10 anni ancora diverso di come sarò fra 5. Io voglio essere in continuo cambiamento, e noi abbiamo, fratelli e sorelle, il privilegio di poter cambiare in Cristo Gesù, perché Lui dimora in noi. Lasciati afferrare da Cristo e afferra ciò per cui sei stato afferrato. Questo dice l'Apostolo Paolo: afferra ciò per cui sei stato afferrato. Cristo ti ha afferrato. Cristo ti ha preso, ti ha fatto suo per farti afferrare delle conquiste. Cristo ti ha conquistato per farti un conquistatore e per farti conquistare territori. Cristo vuole che tu non ti accontenti, e Cristo vuole neanche che tu ti rassegni. La rassegnazione è una trappola. Quando tu cominci a dire: questo è tutto quello che posso vedere nella mia vita, perché questo è tutto quello che sono e questo è tutto quello che conosco. Beh, così come pensi, quello così ottieni, così vivi. Comincia a pensare diversamente, e oggi lo faremo insieme, facendo un salto verso la fine di questa lettera bellissima dei Filippesi, andando alle ultime raccomandazioni. Sono diventato un appassionato delle ultime raccomandazioni di tutte le lettere. Le leggo perché sono questo concentrato di indicazioni, di istruzioni, di consigli che gli apostoli fanno alla fine delle lettere, e che dimostrano che tipo di vita possiamo noi vivere, quale stile di vita Dio ha in serbo per noi. Ed è bellissimo, le ultime raccomandazioni di 1 Tessalonicesi che abbiamo visto la scorsa volta sono qualcosa che stanno determinando le mie giornate, spero che possano determinare le tue. Oggi andremo a vedere le ultime raccomandazioni che troviamo in Filippesi per cogliere quelle che sono probabilmente alcune delle conquiste che Dio ha per te e per me. Vogliamo leggere dal capitolo 4, il versetto 2 e 3. Guardiamo insieme, Filippesi 4, 2 e 3. Dice, esorto Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Non è incredibile? Lascia lì quel verso. Non è incredibile che la Chiesa ripercuote e rivive sempre le solite cose? Cioè, tu puoi cambiare i nomi, perché effettivamente nomi come Evodia e Sintiche, grazie a Dio, non ce li abbiamo più, però le circostanze sono sempre le stesse. È evidente che queste due donne fossero in conflitto fra loro. E non erano donne dei simpatizzanti della Chiesa, erano due leader, dei collaboratori nell'avanzamento dell'Evangelo con Paolo. E Paolo che fa? Dice, io esorto queste due donne che sono in conflitto. Potremmo metterci, che ne so, Elisa e Noemi. Io esorto Elisa e Noemi ad essere concordi nel Signore. Amen, dice qualcuno. No, non sono in conflitto, non lo sono mai stati, io credo, e grazie a Dio, anzi, stanno insieme sedute vicino. Però non è vero questo in mezzo a noi. E sapete cosa? A me mi incoraggia. A me incoraggia a leggere la parola di Dio, perché a volte noi mitizziamo tutto. Pensiamo che la Chiesa primitiva di 2000 anni fa, quella fondata dall'Apostolo Paolo, quella fondata dall'Apostolo Pietro, era perfetta. Erano di un unico sentimento, mettevano tutto insieme e collaboravano e si amavano e avevano gli stessi pensieri. Però basta leggere un po' più a fondo, andare qualche capitolo oltre e ti rendi conto che noi non abbiamo niente da invidiare a quella Chiesa e quella Chiesa non ha niente da invidiare a noi, perché come erano imperfetti loro, lo siamo noi oggi e in mezzo a noi oggi ci sono dei conflitti. Forse sei seduto in un posto che ti sei scelto perché non vai a genio con quella sorella o con quel fratello. È tutto normale, è tutto naturale. L'Apostolo Paolo però sai cosa dice? Beh, siate concordi. Incredibile quanto l'Apostolo Paolo non entra nel merito del disaccordo, non entra nel merito del litigio, non cerca di capire chi ha ragione o chi ha torto, semplicemente dice, beh, ok, è tutto normale, siete in disaccordo? Mettetevi d'accordo nel Signore. Questa è la differenza. Sapete, noi sempre possiamo essere in accordo e in Cristo Gesù. Perché Lui ci dà la potenza e l'autorità di poter perdonare, di poter correre oltre, di disarmarci di quella giustizia personale e di quella forza interiore carnale che ci porta a ire, a contese, a gelosie, a invidie, a litigi e lotte. Siate concordi, dice l'Apostolo Paolo. Questo è l'invito che Dio probabilmente fa a te questa mattina. Se hai un disaccordo con qualcuno, il Signore ti dice perdona. Il Signore questa mattina ti dice vai oltre e poi dice chiama in causa un'altra persona, un certo fedele collaboratore, non si capisce chi è, Epafrodito, Barnaba o Timoteo, diversi fanno le loro supposizioni a riguardo. Però l'Apostolo Paolo fa appello a questo fratello e dice entra in azione e nella tua azione porta accordo. Forse questa è un'altra indicazione, questa è una raccomandazione forse che Dio sta dando a te. Forse conosci il conflitto fra due fratelli, fra due sorelle o in una qualsiasi relazione all'interno della Chiesa. Il Signore fa appello a te. Vieni in soccorso, sii uno che porta pace. Andiamo oltre, se no non finiamo più. E poi aggiunge, versetto 4, bellissimo questo verso, Filippesi 4:4 dice, si era un po' addormentata Luciana un attimo, Luci ci sei? Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Lo vogliamo leggere insieme, con la stessa forza che l'ho letto io, al mio 3, 1, 2, 3. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. È incredibile che la parola di Dio ci dà questa istruzione. Dice, siate allegri, siate gioiosi, siate pieni di allegria. E il bello è che questa ripetizione proprio ci invita a soffermarci. Io voglio soffermarmi con voi su queste parole, perché è evidente che Dio sta dicendo afferra bene questa cosa, te la sto ripetendo e ci sto mettendo un punto esclamativo. E sapete, questa ripetizione è la ripetizione di una ripetizione, perché nel capitolo 3, al versetto 1, già dice... Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Quindi nella lettera già l'ha detto l'Apostolo Paolo e non fa passare un altro capitolo per ridirlo e fare la ripetizione della ripetizione di quanto ha ripetuto e già detto. E il bello è che questa ultima raccomandazione, sapete, la troviamo anche in 1 Tessalonicesi 4:16, che è quelle ultime raccomandazioni che abbiamo letto la scorsa volta. Dice, siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi. In 2 Corinzi 13, versetto 11, dice, del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace, e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. E ci sono tante altre lettere, altri punti nella Bibbia dove ci viene fatto questo invito, ci viene data questa raccomandazione, questa indicazione da parte di Dio che dice rallegrati. E quando ho letto queste parole sono entrato un po' in crisi, perché io comprendo la gioia quale frutto, io comprendo la gioia quale risultato. Come è scritto in Galati 5, no? Noi sappiamo che il frutto dello Spirito è amore e poi immediatamente dopo dice gioia. E io questo lo comprendo, perché so che il risultato dello Spirito Santo, della sua opera in me, in noi, lo sappiamo tutti, porta gioia. È lo Spirito Santo che porta questa gioia. Però l'indicazione non la comprendo. L'istruzione, l'imperativo che l'Apostolo Paolo usa, non lo capisco. Com'è possibile decidere di essere gioiosi? Com'è possibile fare una scelta a tal proposito? Noi possiamo determinare la nostra gioia? Beh, alla luce di queste parole, alla luce di quanto dice la parola di Dio, sì. E addirittura queste parole ci mettono in chiaro, e poi magari rimetterle, Filippesi capitolo 4 versetto 4, che noi possiamo sempre essere gioiosi. Cioè non è che lo possiamo fare solo in alcuni momenti della nostra vita, quando le circostanze sono vantaggiose, quando tutto fila liscio, ma il Signore Gesù ci dice questa mattina che a prescindere dalle tue circostanze tu puoi sempre vivere nella gioia. Incredibile, è letteralmente incredibile, è assurdo, è inconcepibile, e acquisisce valore il fatto che l'Apostolo Paolo sta scrivendo queste indicazioni essendo lui stesso in prigione, e in una circostanza difficile indirizza queste parole a una chiesa perseguitata, nel dubbio, tormentata, in situazioni ostili, alle quali noi non possiamo neanche confrontarci minimamente. E questo è il mistero. A volte la Bibbia sembra esagerare. Non siete d'accordo con me? La Bibbia a volte sembra esagerare. Sembra essere fuori, lì, proprio fuori dal tempo, fuori dallo spazio, fuori dalla comprensione logica delle cose. Eppure, se la Bibbia dice questo, allora è verità. E se la Bibbia ti dice puoi rallegrarti, anzi ti comanda, rallegrati. Rallegrati Rosalia, rallegrati Antonio, rallegrati Mirko, rallegrati Aldo, rallegrati Maria. Se la Bibbia sta dicendo questo, evidentemente tu lo puoi fare, evidentemente tu puoi scegliere, evidentemente tu puoi decidere di vivere una vita gioiosa. Sta indirizzando queste parole a tutti. L'Apostolo Paolo non scrive solo a determinate persone. Non voi lo sapete che nella nostra cerchia di amicizie, sono convinto anche nella vostra, c'è quella persona che è sempre allegra, no? Che un po' ti snerva. Perché c'è il sole, a te fa caldo e lui è contento. C'è il sole, è caldo, possiamo andare al mare. Fa freddo, piove, tu sei infreddolito e lui è contento. Dice che bello che piove, la campagna riceve acqua. I fiori, il verde. C'è quel tipo di persona che ti snerva perché può capitare pure qualcosa di negativo eppure lui è sempre positivo. Sono quelle persone gioiose che sono splendenti. Allora tu leggi queste parole e dici, sì, queste parole sono per quel tipo di persona. Lui ha afferrato questa verità, ma non vale per me. Io sono malinconico, non so quanti sono con me. Io sono un tipo malinconico, no? Se c'è un po' di grigiore fuori, se c'è un po' di nuvole, no? Metto la giusta base musicale per quella giornata. Che è una melodia neomelodica, no? Molto che ti porta ancora più giù, perché non basta che sta piovendo fuori, è grigio e fa freddo. Devi mettere pure quella canzone che un po' fa da colonna sonora alla tua giornata triste. E per chi ha visto Inside Out, no? È tristezza che sta ai comandi, no? E a volte nella mia vita è tristezza che sta sempre lì ai comandi. Ma mi piace. E io dico, sono fatto così. Non voglio allegrezza lì. Eppure la parola dice, tu puoi essere sempre gioioso. E quale promessa meravigliosa Dio fa alle nostre vite, a ciascuno di noi, di poter vivere una vita nella gioia. Sapete, Gesù stesso, in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, dice agli apostoli, dice ai discepoli, dà una serie di istruzioni, no? Dimorate in me e fate in modo che le mie parole dimorano in voi, così che porterete frutto. E poi finisce questo discorso e dice, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Il nostro Dio è un Dio di gioia. Il nostro Dio vuole che noi viviamo gioia costantemente, a prescindere dalle circostanze, tutti noi, a prescindere da quello che è il tuo carattere, la tua personalità. Dio ti chiama ad avere gioia. E io credo, è mia convinzione, che i versi che seguono questa istruzione ci mostrano anche come poter ottenere questa gioia. Vogliamo leggerli insieme? Dice, rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Versetto 5, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Quando l'Apostolo Paolo ha scritto queste parole, il tutto era connesso. Non possiamo sconnetterli come hanno fatto gli studiosi della Bibbia, che hanno diviso la Bibbia in versetti, no? E pensare che il versetto 4 è un mondo a sé rispetto al versetto 5. No, la punteggiatura, le divisioni non sono le stesse nell'originale ed è tutto un discorso che fluisce ed è connesso fra di loro. Quindi l'Apostolo Paolo sta dicendo rallegratevi sempre nel Signore, ripeto rallegratevi, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino, come se fosse qualcosa che una verità integra l'altra. E io sono convinto che il segreto per la gioia sta nel vivere una vita che è concentrata sugli altri. L'Apostolo Paolo dice, la vostra mansuetudine sia nota a tutti. Nel momento in cui la tua gioia è concentrata su quello che tu vuoi ottenere, su quelli che sono i desideri del tuo cuore, su quelle che sono le tue aspettative, su quelle che sono le cose che tu vuoi per te stesso, sui tuoi beni, sulla tua nuova macchina, sulla nuova casa, su quant'altro tu puoi ottenere e ti concentri su te stesso, questo diventa la minaccia più grossa per la tua gioia. Ma quando invece la tua vita è basata sul fatto che vuoi che gli altri stiano bene, che la gentilezza traspare attraverso di te. Sapete, mansuetudine è un termine che nel greco è anche tradotto come gentilezza. Il tuo sorriso, Quando tu fai della tua giornata una giornata nella quale ti concentri sugli altri, nel portare mansuetudine agli altri, nel portare grazia agli altri, nell'offrire perdono, nel porgere l'altra guancia, nel non essere lì a legarti al dito ogni cosa che accade e a ricordarti le persone, le facce per il torto che loro ti hanno fatto, ma sei lì per offrire mansuetudine, per essere una persona autocontrollata, per essere una persona che sorride, lì tu cominci a ottenere gioia, perché Dio ti dà libertà e rompe la catena dell'autosufficienza, dell'egocentrismo e di quello che è il tuo bisogno personale di ottenere in te stessa, nelle tue cose, la tua soddisfazione. Sorridi, sorridi, dice la parola di Dio. Sii gentile, ringrazia, lascia correre, lascia correre. Non legarti al dito le cose, lascia correre, ama e sarai gioioso. Mi fate un bel sorriso, fai il sorriso alla persona che ti sta a fianco, fagli un bel sorriso. Noi siamo una chiesa che vuole vivere questo, la mansuetudine e gioia. Andiamo avanti nella lettura. E voi sapete bene che Gesù dice: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi conoscete bene queste istruzioni. È tempo solo che noi le cominciamo a vivere per ottenere quella gioia completa che Dio ha per noi. Versetto 6. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere, suppliche, accompagnate da ringraziamento. Non angustiarti di nulla. Ma in ogni cosa fai conoscere le tue richieste a Dio in preghiere supplica, accompagnate da ringraziamento. Avete mai avuto in macchina, mentre voi eravate alla guida, quel tipo di persona che è ansiosa? Io non farò esempi, se no... Mamma, ti voglio bene. Ma quel tipo di persona che deve ancora accendere la macchina e già afferra la maniglia. E prima ancora mette la cintura, ma non come chiunque altro, no? Perché c'è chi mette la cintura tranquillo, anche quando sei già in movimento con la macchina. C'è quella persona invece che già entra, ti vede e mette la cintura, come a dire: io di te non mi fido. E poi afferra la maniglia e sta lì rigido, no? E ti guarda e guarda ogni cosa. Attento lì e attento lì. E cambia marcia e vai più piano. Non so se avete vissuto anche voi questa cosa, no? Tutti gli uomini stanno sorridendo, sono soddisfatti. Finalmente qualcuno lo doveva dire questa verità. E ora che torniamo a casa, di tutta la predica sottolineerò questa cosa. Sentito il pastore? Sapete, l'ansia è il risultato di una mancanza di fiducia, mamma. Tu vivi ansia perché non ti fidi. Tu vivi apprensione perché è tutto sulle tue spalle. Tu vivi preoccupazione perché credi che tu sei alla guida. E la parola di Dio ci dice ripetutamente: non avere ansia, ma prega, fidati. Quando tu vivi fiducia, quando tu credi che veramente Dio ha le redini in mano della tua vita, qualsiasi cosa accada, tu vivi gioia. Perché l'ansia è la maggiore minaccia per la gioia. Ma la fiducia, l'arrenderti a Dio con la preghiera, perché la preghiera è la manifestazione dell'esercizio della fiducia, è ciò che rilascia gioia nella tua vita. Tu puoi essere sempre gioioso se sei sempre fiducioso, e puoi essere sempre fiducioso se fai della tua vita una vita che dipende dalla preghiera, nella quale ti affidi completamente a Dio in qualsiasi cosa tu vivi. Vedete come tutte le cose sono ben collegate fra di loro. Per questo in 1 Tessalonicesi abbiamo letto: siate sempre gioiosi, e poi subito dopo dice: non cessate mai di pregare. Per la stessa ragione, perché tutte queste cose sono collegate fra loro. Ascoltatemi bene. Essere ingrati, e questo è il mio ultimo punto, essere ingrati è ciò che alimenta la nostra ansia. E questa ansia e questa angustia è la tomba della nostra gioia. Vivere il ringraziamento è gioia. Oltre la preghiera, abbiamo letto: fate conoscere le vostre richieste in preghiere e suppliche accompagnate, e aggiungerei sempre, da ringraziamento. Un cuore ingrato è un cuore che è angustio. E un cuore che è angusto è un cuore che non sperimenta gioia. Se tu vuoi gioia nella tua vita, vivi la preghiera quale esercizio della fiducia, ma accompagna la preghiera il tuo ringraziamento. Perché quando tu ringrazi, tu liberi gioia nella tua giornata. Quando tu ringrazi, l'abbiamo sentito anche la scorsa settimana, quando tu ringrazi per ogni cosa che stai sperimentando, il tuo giorno grigio diventa luminoso. Quando tu sei grato a Dio per quella parte del tuo corpo che è in salute, allora la tua malattia non avrà il vigore di rubarti la gioia. Quando tu sei grato a Dio per il fatto che puoi mangiare, puoi vestirti e Dio provvede a te, non sarai derubato della gioia che proviene dai pensieri: ma non c'ho la macchina che c'ha il mio vicino, e non c'ho la casa che c'ha quell'altra persona lì. Quando tu permetti a Dio di far amplificare in te il ringraziamento, tu cominci a sperimentare la gioia che c'è nell'avere ogni dono prezioso che Dio ti sta dando, perché tu sei benedetto. Puoi solo scegliere di riconoscerlo o ignorarlo. Io sono benedetto. Nella condizione in cui sto, sono benedetto. Potrei essere qui e dire: io sono sfortunato. Potrei essere qui e sottolineare tutte le cose che mi mancano. Ma so che quella è una trappola del nemico per la mia vita. Ed è una trappola del nemico per la tua di vita. Non permettere al diavolo di rubarti la gioia. Non guardare alle cose che ti mancano. Non sottolineare le cose che ancora non hai e che vorresti. Sii grato a Dio, perché la gratitudine ti libererà. E la gioia che otterrai attraverso un cuore grato ti permetterà di ottenere anche ogni altra cosa. Ho detto prima, noi vogliamo essere una chiesa che sorride. E io voglio invitare tutti i capogruppi che sono qui questa mattina, nel guidare i gruppi che avremo questa settimana o la prossima, io ti incoraggio a vivere una riunione che sia allegra, sorridente, dove la gratitudine prende piede. Nelle nostre riunioni che possiamo avere questa gioia, la gioia di stare insieme, la gioia di poter essere grati a Dio, che nonostante le nostre imperfezioni, nonostante le nostre mancanze, siamo in un percorso e stiamo protendendoci per afferrare quelle cose per le quali siamo stati afferrati, e forse ancora non tutte le abbiamo afferrate, ma non abbiamo motivo di criticarci l'un l'altro, non abbiamo motivo di rassegnarci, di demolirci con parole di mormorio, con la critica in mezzo a noi. Io sono grato a Dio perché noi non siamo una chiesa che vive questo, e ti voglio incoraggiare ancora di più come leader di questa chiesa, se guidi un gruppo, se guidi una qualsiasi forma di riunione, a portare gioia, a portare pienezza di vita attraverso una tua attitudine, che è l'attitudine di una persona che è grata a Dio. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi allegramente. E vogliamo cantare un canto. L'ho fatto stancare a Leo stamattina qua. Voglio invitare tutto il gruppo Lode e voglio che cantiamo un canto allegro. Ci siete? Siete contenti? Vi ho messo in difficoltà, stavate già pronti per un canto malinconico. Vogliamo cantare un canto allegro, e io voglio invitarti, questo è il mio appello questa mattina, Non voglio pregare per le persone, non voglio farti alzare la mano, voglio che tu vivi attraverso questo canto di lode adorazione la pienezza della gioia che Dio vuole farti sperimentare. Attraverso questo canto io voglio che noi esplodiamo in una manifestazione di festa, di gioia, nella quale diventiamo grati per tutto quello che abbiamo davanti a Dio e permettiamo alla gratitudine e alla fiducia in Dio di prevalere su ogni cosa che vuole rubarci la gioia. Lo vogliamo fare insieme. Padre, noi siamo qui per lodare il tuo nome, noi siamo qui per festeggiare perché sei buono, perché la tua bontà dura in eterno, e grazie per ogni cosa che ci dai, grazie perché siamo un popolo benedetto e siamo benedetti dalla tua parola e siamo benedetti da ogni ricchezza che c'è in essa, siamo benedetti dalle tue promesse, siamo benedetti perché siamo salvi per l'eternità. Gloria a te, Signore Gesù. Grazie perché siamo guariti in te, grazie Padre perché siamo vittoriosi in te, grazie Padre perché possiamo guardarci avanti sapendo che ogni conquista che tu hai in serbo per noi, noi la afferreremo nel nome di Cristo Gesù. A te la gloria e l'onore. Facciamo festa, Chiesa.